Buonasera a tutti, benvenuti. Mi sentite ora? Sì? Perfetto. È un piacere ospitare come Biblioteca Provinciale Claudio Augusta la signora Eleonora Goio e il signor Nikolaus Fischnaller in questa serata qui al Cristallo. Come biblioteca vi mando il saluto dei miei colleghi, della mia direttrice, dottoressa Trevisan, e vi parlo però anche delle nostre iniziative successive, perché già la prossima settimana, il 2 e il 9, avremo due incontri sempre qui di storia. Il primo si intitola Europa Caput Mundi e il secondo Quo Vadis Europa, quindi insomma due conferenze che potrebbero interessarvi. L'incontro successivo invece del 16 di novembre sarà al Centro Trevi. Torniamo al Centro Trevi, la nostra seconda casa, che è stata ristrutturata in questi giorni, viene ristrutturata, speriamo sia ancora più bella, con Petto in fuori, pancia in dentro, memorie di Bruno Gelmi e Bruno Zito. Questa è proprio una produzione della biblioteca, perché queste memorie le abbiamo raccolte noi come biblioteca, quindi è un nostro piacere, un onore insomma presentarvi quest'opera. Vi ricordo l'ultima cosa, i nostri corsi che permettono di scoprire il BiblioWeb, la nostra biblioteca digitale che viene a casa da voi, vi porta libri, e-books, vi porta musica, film, periodici di vario tipo, di varie lingue. Ci sono anche dei corsi che vi aiutano a esplorare questa piattaforma in biblioteca ogni venerdì. Se volete informarvi potete telefonarci, passare, andiamo in Mendola 5 e scoprirete un po' il mondo della biblioteca, ma tanti di voi vedo che sono già dei nostri. Bene, allora vi auguro una buona serata. Passo la parola appunto a Eleonora Goio e a Nikolaus Fischnaller. Ci saranno anche delle letture della signora Orietta Scrinzi e di Simonita Terzarioli. Buona serata. Buonasera a tutti. Allora, io ovviamente, come ha detto la signora della biblioteca, signora Eleonora Goio, e l'idea che ho avuto dopo altre presentazioni che ho fatto e soprattutto dopo aver conosciuto Nikolaus Fischnaller nella presentazione a Blinding Centrum del mio libro Vita Valenti, ho pensato che c'è una cosa che ci accomuna assolutamente, e che è la capacità di rinascere dopo un trauma o comunque un evento traumatico o tragico, come vogliamo vederlo. E credo che noi invece siamo la dimostrazione vivente di due esperienze invece molto positive, che nonostante appunto questi accadimenti della vita abbiamo avuto la capacità di riprenderci in mano la vita e nonostante tutto, e quindi di riaver iniziato una nuova esistenza. Il titolo che ho voluto dare io a questo evento, Riesistenza, all'interno di questa parola anche la parola resistenza, perché in qualche modo resistenza o resilienza è una capacità psicologica, è un atteggiamento mentale che molte persone riescono proprio a rimettersi in campo delle risorse o delle energie che magari uno pensa di non avere. Ci do brevemente solo due cose. Allora, Trabucchi è uno sportivo estremo che ha fatto della sua, diciamo, professione un modo di reagire anche allo stress, non solo psicologico ma anche mentale e fisico. E di lui mi piace prendere questa tecnica, si chiama ABCDE, ed ogni lettera ha un suo significato. La A sta per adversità, lui usa i termini inglesi, comunque vabbè, l'avversità della vita, che può essere... Nel mio caso è stata un'operazione al cervello, per chi non mi conosce, dopodiché sono diventata un'emiplegica e un'epilettica. Però potrebbe essere anche qualsiasi altra cosa, potrebbe essere un lutto, potrebbe essere un incidente, potrebbe essere una perdita del lavoro, potrebbe essere un abbandono in una relazione sentimentale. Potrebbe essere qualsiasi cosa che noi viviamo come qualcosa che in qualche modo ci blocca e ci pone davanti comunque un problema che può essere negativo ma può essere superato invece, secondo me, in maniera molto positiva. E vediamo la seconda lettera, la B, a che cosa corrisponde. Believe sono praticamente le nostre credenze, le nostre convinzioni rispetto a come noi percepiamo la realtà. E quindi se noi siamo in grado di dominare il nostro modo di pensare E quindi a questo punto è come se noi scalassimo o imparassimo a dominare queste avversità, e in base a queste credenze noi possiamo passare alla fase successiva, che è la C, che sono le conseguenze. Quindi sta a monte l'evento, ciò che noi pensiamo rispetto alla nostra vita, di come ci poniamo, e quali sono le conseguenze in relazione all'evento traumatico. Alla fine ci mettiamo in discussione e quindi arriva la D, e in questo modo noi siamo in grado di mettere in discussione ciò che ci relaziona alla realtà, e quindi possiamo riprendere il controllo della vita. Alla fine l'ultima è effetti, l'effetto, e a questo punto voglio cedere la parola a Nicolaus, perché ognuno di noi ha avuto un modo diverso di reagire alla vita, e quindi gli effetti sono per ognuno personali. Prego. Ok, dunque ho piacere di essere qua, proprio perché so che quando c'è l'Eleonora non si può mai fare brutta figura, e mi salverà di sicuro. Comunque mi sono contento, insomma, di essere qua. Io adesso, prima di dire qualcosa della mia vita, vorrei dire della situazione adesso, che disagio avrò adesso, se vi chiedo cosa potrebbe essere. Io devo fare un po' di scena per far capire un po' la mia realtà, diciamo. Io adesso ho un disagio. Io non so dove siete, per esempio, e se sono e quanti siete o dove siete, insomma, fatemi sentire. Io ho bisogno di qualcosa, di qualche eco di acustica. Guardate la mano, ecco. Bene. Per far capire alle volte la difficoltà che si può avere. Io posso anche sentire un altro parlante, guardo sempre l'altro parlante, penso che parla bene, e batto le mani e guardo sempre l'altro parlante invece di guardare verso il relatore. Mi è anche se ci è successo. Questo solo per dire la situazione giornaliera può essere alle volte che si ha bisogno di qualche aiuto, di qualche ecco il punto acustico. Dunque, io sono andato a scuola con 7 anni, e il primo giorno non vedevo che cosa hanno disegnato sulla lavagna. Dovevo andare al primo banco, e poi dovevo, per un anno o due andavo, poi dovevo uscire per leggere e ritornare per scrivere, e quando andavo verso la fine della scuola non ho neanche più visto di scrivere, non ho più scritto. Sì, hai visto che mi salvi? Bene, dunque io vedere poco, vedevo poco, meno quando era molto chiaro, vedevo meno al centro, dovevo guardare proprio così dal lato, e così, ma quello non era la mia difficoltà, era sempre il contatto con la gente. Io per primo avevo paura di non avere il valore, cioè anche se non produco come gli altri, così di valere meno. Avevo paura di fare brutta figura se uno mi fa vedere qualcosa, e guai se qualcuno avesse detto questo povero bambino, povero diavolo, roba così. Insomma, io ho nascosto di vedere poco, pensavo di nascondere, e non ho vissuto la mia identità, diciamo. Quella è la cosa più, perché tutto il resto è andato bene, avevo una famiglia, un nido caldo proprio, e era molto buon contatto con la natura e così via. Comunque dopo Sì, adesso non so quanto adesso. Allora, dopo, tu, sì. No, dico perché il tema qua è come salvarsi, come venire fuori da una certa situazione. Io dopo sono andato a Innsbruck per fare un corso per i non vedenti, insomma, per imparare le tecniche e così via. Mi hanno dato degli apparecchi, andava bene, mi hanno dato ho imparato a scrivere e leggere in braille, che per me era molto molto interessante, molto aspettavo molto, ho letto i libri come mangiarli e poi mi hanno insegnato di camminare da solo col bastone. Ho imparato di accettare come sono e di lavorare con quello che è rimasto, e questo è la cosa più importante, penso, per tutti. Lo stesso se uno non ci vede o sono altre cose, io penso tutti hanno qualcosa, e se uno dice sempre che questo è corretto, io sono stato fregato, sono stato ingiusto, questo o quell'altro, allora starà sempre male. Se uno lavora con quello che ha e è grato con quello, penso che è risolto molto, quasi tutto. Sentato. Allora, riprendo un attimo proprio il discorso che ha fatto adesso Nicolas. E il concetto che io vedo anche girando, perché ormai da quando ho presentato questo libro ho girato tutta l'Italia a presentarlo, e nel campo della disabilità o diversamente abili, come vogliamo definirli, insomma, allora io ho due opinioni. Intanto siamo tutti diversamente abili, anche tra virgolette i cosiddetti normali, perché abbiamo ognuno di noi delle abilità diverse, e quindi non è diversamente abile, ma siamo tutti abili diversamente. Quindi questa è la mia modo di pensare. Secondo concetto, noi siamo tutti uguali proprio nell'essere diversi, perché la ricchezza che abbiamo noi è proprio l'essere unici, e quindi ognuno di noi è talmente unico, talmente diverso, ed è la ricchezza. E quindi, come diceva giustamente Nicolaus, è ciò che abbiamo che ci fa arricchire, e non ciò che non dobbiamo vedere i limiti di ciò che non abbiamo, ma utilizzare e sfruttare al meglio ciò che noi abbiamo, quindi le nostre abilità. E qui mi aggancio un po' io a quello che mi è capitato, ovviamente da ex insegnante di educazione fisica. A un certo punto la parte motoria è stata in qualche modo limitata, però il cervello, come dice anche Nicolas, funziona, e quindi ho detto ok, ci reinventiamo una nuova vita, ed era uno di quei sogni nel cassetto. A me piaceva viaggiare, avevo già viaggiato prima dell'intervento al cervello, e ho detto ok, tiriamo un po' dal cassetto quello che avevo scritto, e ho iniziato a pubblicare i primi due libri, che sono Viaggio al buio e Mezza luna rovescio, due viaggi che ho fatto con una vecchia Meari nel 2008 e 2009. Dopodiché nel 2010 ho subito l'intervento al cervello, e a quel punto è nato Vita al rallenti, che è la mia nuova vita. Quindi è una vita con un tempo più lento, una vita rallentata, ma da più che altro dal punto di vista forse motorio, perché mentale credo che, mi conosce bene anche Nicolas, continuo a viaggiare, girare, fare. E c'è anche una mia ex alunna che mi ha coinvolto in un bellissimo progetto di una performance al Passo Mendola, Flux, e Elena Molinaro, che è qua in sala, e quindi grazie a lei ho potuto anche riprendere in qualche modo la mia corporeità diversa, e quindi ho contribuito anch'io a questo percorso artistico. Questo è quanto, nel senso che voglio dire, alla fine la cosa importante, e grazie anche a Nicolas i miei libri sono diventati anche libri parlati, perché nessuno ci pensa. Alla fine, voglio dire, il mondo delle persone non vedenti non possono leggere i libri che uno dà per scontato, quindi appena ho incontrato Nicolas mi sono dato subito disponibile a renderli parlati. Quindi i miei tre libri sono diventati parlati, oggi li ho portato le prime copie che ho ricevuto da Roma, E quindi insomma auguro buon ascolto, che buona lettura, quindi entrambe le cose, ognuno là a dare il suo taglio. Vorrei che Nicolas invece dicesse che cosa è la sua occupazione principale, perché lui come me credo abbiamo un po' una missione sociale nella divulgazione o della disabilità o diversamente abile, come vogliamo dire. Lui credo che abbia un altro fine nella sua carriera professionale. Vai. Dunque, io mi devo fermare un attimo, diversamente abile, perché noi ci capita che tutti pensano i ciechi, oh, Superman, hanno una luce interiore, basta schiacciare da qualche punto, insomma sentono di più, si orientano bene, così. Insomma, questo io comunque ho un collega, per dire, quello conosce ogni macchina dal rumore del motore, e io non conosco neanche una. Vuol dire, noi siamo gente normale, non siamo, la cecità non fa diversamente abili. Io, a me questa parola non mi piace neanche tanto, perché abili diversamente mi piaceva di più. Comunque, non avere un'idea fissa, un cieco. Quel cieco che ho visto in televisione, mamma mia come era buono lo sport. Se si parla di qualcuno, allora naturalmente può essere, insomma, siamo come voi tutti, come noi tutti abbiamo una la capacità così, il talento, ecco, questo volevo dire prima. Io comunque ho fatto, volevi della vita, hai detto, io ho lavorato sempre per ho lavorato come centralinista, poi dopo la scuola di Innsbruck ho fatto il corso. E ho lavorato sempre, siccome avevo una sorella che ha 10 anni di più di me, che era un po' la pioniera per il lavoro per i non vedenti in Alto Adige, io come fratello naturalmente cercavo di dare una mano, così ho lavorato già da piccolo un po' per queste cose, ero presidente del gruppo sportivo, sono dentro sempre nel consiglio dell'Unione dall'inizio, al centro cieche, che sono due organizzazioni diverse, e così via, lì sono presidente adesso. Più non dico al momento. E comunque non so se poi vuoi come leggere, ci contesti. No, vuoi leggere qualcosa? Sì. No, questo volevo appunto dire, io prima ho detto il disagio, così anche adesso, se avessi i libri potrei leggere, forse sarebbe, una parte sarebbe meglio, d'altra parte è meglio così ho due donne vicino che mi coccolano, che mi viziano, e io basta qua, posso essere tranquillo, fanno tutto loro. Quando avevo circa 6-7 anni, s'accorsero dunque che avevo notevoli disturbi alla vista, che non si trattava soltanto di ipersensibilità alla luce abbagliante del sole, ma di una malattia della retina aggravata da miopia. Ero affetto da retinitis pigmentosa, una forma patologica regressiva che compare nei figli quando la predisposizione genetica a tale malattia è presente nel patrimonio ereditario di ambedue i genitori. In tal caso, essa colpisce in media un quarto dei figli, e ciò si è verificato purtroppo anche nella nostra famiglia. Oltre a me, sono diventate cieche tre mie sorelle, Marie-Edle, Rita ed Elisabeth. Cestite voi. Di dead. Okay. Io ho scritto lì, mi sono impegnato di colato. C'è un brano molto bello che avevamo trovato già in questo testo, Vedere con gli occhi dell'anima. E fanno anche d'aiuto anche a me. Mi affascinavano i colori che potevo osservare da molto vicino, o portandole agli occhi per contemplarle le forme e le tinte. Certi splendidi colori mi sono rimasti talmente impressi che riesco a vederli ancora oggi, a rievocarli. In particolare, per osservare un giglio rosso cresciuto fra i sassi sotto la chiesa ed ammirarlo con riguardo, pieno di stupore per una simile meraviglia, mi arrampicavo ripetutamente su quella roccia. Osservarlo significava per me tenerlo delicatamente tra le mani, avvicinando gli occhi avidi fino a pochi centimetri, e muoverlo lentamente per imprimermi tutte le sfumature delle forme e dei colori. Poiché dovevo arrampicarmi, pensavo di essere l'unico ad averlo scoperto e che quel giglio fiorisse solo per me. Andiamo avanti. Sì, una persona che mi ha aiutato molto a rafforzare la fiducia in me stesso fu lo zio Luis, che veniva a trovarci per qualche giorno un paio di volte all'anno. Con lui non occorreva nascondere la mia menomazione ed egli contribuì a valorizzare la mia altra abilità. Lo zio Luis, padrino di battesimo del mio fratello maggiore con lo stesso nome, abitava nei pressi di Merano e si tratteneva da noi per una quindicina di giorni, eseguendo in casa e nei pressi piccole riparazioni e migliorie per le quali mio padre non aveva tempo. A noi nipoti portava sempre uno zaino pieno di mele. Volevo molto bene allo zio Luis, che sapeva fare molte cosette e giocattoli con pochissimi attrezzi, adoperando soltanto legno e filo di ferro, la mira ed un paio di chiodi, mentre gli altri dovevano prima comprare tutto il materiale. Lo osservavo attentamente mentre lavorava, talvolta gli davo una mano, e se facevo qualcosa bene, egli mi lodava facendomi inorgoglire. Di sera nella stube ci presentava indovinelli e spesso li risolvevo io per primo, con sua soddisfazione. Forse li modificava un po' per favorirmi, poiché mi voleva particolarmente bene. Un aspetto fondamentale del suo carattere lo portava a vedere in ogni cosa il lato positivo e a ricavare da tutto qualcosa di buono. Si dedicava molto a noi bambini, trasmettendoci la sua esperienza di vita. Per me fu un modello ed un vero amico. Allora, interrompo solo la lettura, volevo giusto per farvi capire alcune cose che io le ho letti veramente, me le ha regalati un anno fa, e io viaggio tra le Marche e Bolzano, sono riuscita a leggermi il suo primo libro, che è Vedere con gli occhi dell'anima. Bolzano, Marche, avevo già finito il primo libro, tornando ho letto il secondo nel tragitto Marche e Bolzano, per dirvi quanto sono coinvolgenti, quanto sono scritti benissimo e quanto rappresentano anche la realtà di Bolzano e della sua infanzia. Sono veramente per me bellissimi. E quello che della vita del Maso, quello che volevo sottolineare anche rispetto alle persone che io ho incontrato in quest'anno di presentazioni dei libri, sono gli aspetti di che cos'è una persona resiliente. Un po' ho spiegato che cos'è la resilienza con questo ABCDE. E invece le persone resilienti vengono definite da 5 componenti che mi piaceva un attimo sottolinearle, e che sono l'ottimismo, che io riconosco moltissimo in Nikolaus, perché ogni tanto ci prendiamo in giro, scherziamo, facciamo delle battute, e mi viene anche la prima volta mi ha detto dai che ci vediamo, e dopo ci ho pensato e mi ha detto io non mi accorgo che mi prendi in giro, no? E quindi è un po' un atteggiamento di questo tipo. Poi anche l'autostima conta molto, ovviamente, e quella uno se la crea nel tempo, ma chiaramente è una caratteristica fondamentale per riuscire appunto in maniera poi ovviamente positiva ad affrontare le difficoltà. La robustezza psicologica, mi sono andata a vedere appunto a che cosa corrisponde, ed è il controllo delle situazioni, quindi saper controllare in questo caso gli eventi anche di difficoltà, l'impegnarsi, perché credo che, come faccio io, fa anche lui. Dopo vi farò vedere velocemente il filmato che in qualche modo sintetizza i miei 5 anni di riabilitazione. Ormai sono quasi al 6° anno. Ed è chiaro che se non c'è impegno e anche un atteggiamento del gusto per la sfida, cioè di dire ok, qual è il mio prossimo obiettivo? Cosa posso fare di più che non facevo magari ieri? Può essere anche solo raggiungere, che ne so, l'interruttore della spina con la parte emiplegica. Quindi comunque questo alla fine crea una robustezza psicologica, cioè un modo di reagire in maniera energica. Ovviamente le emozioni positive sono di riflesso, perché è ovvio che se uno poi ha un atteggiamento di questo tipo, le emozioni che tornano sono altrettanto positive, cioè la gente che ti incontra ti rimanda un po' quello che sei tu in qualche modo, quindi ti rimanda un riscontro positivo, almeno quello che io mi accorgo è questo. E per ultimo è il supporto sociale, quindi io credo che la condivisione, e quindi per quello che io giro molto l'Italia e incontro moltissime associazioni di tutti i tipi, è proprio il fatto di raccontare un po' per liberarsi, un po' per metabolizzare anche le cose, ma soprattutto per condividere e comunque per mettere in rete tante esperienze. E questo credo che sia fondamentale, quindi prego la lettura. Ci sentite anche senza microfono? Sì. Continua la storia del bambino Nicolaus. Adesso siamo al secondo libro, Parla finché ti veda. Fidarsi ciecamente. Quando ero ancora molto giovane, in una bella giornata estiva di molti anni fa, intrapresi una scalata sul Saste Putia, un colosso dolomitico alto 2875 metri, non lontano da Luzon, il mio paese natale nei dintorni di Bressanone. Eravamo in 4, un amico, mio fratello Tony, io e una nostra amica, in segreto la mia ragazza. Il mio problema principale consisteva nel fatto che, trovandomi ancora nella fase in cui la vista stava lentamente calando, consideravo umiliante l'aver bisogno di aiuto e rifiutavo pertanto di lasciarmi guidare. Così quel giorno mi puntai a procedere da solo dietro agli altri, affidandomi esclusivamente ad un bastone e a quell'ormai insufficiente minimo di vista che ancora mi restava. Perciò, una volta giunto al tratto finale, assai ripido, non fui in grado di arrampicarmi fino alla vetta come gli altri. La cosa peggiore fu che non riuscivo a trovare il coraggio di stringere una relazione impegnativa con la mia ragazza che si trovava sulla cima. E il dover restare da solo più in basso non contribuì certo ad aumentare la mia autostima. Non riuscii a rassegnarmi alla sconfitta e sulla via del ritorno scaricai la mia delusione e il mio conseguente pessimo umore sugli altri, sfruttando ogni occasione per brontolare e criticare. In quello stato d'animo depresso non fui più in grado di apprezzare le attenzioni della mia amica e contraccambiarle con riconoscenza. Nella relazione con lei, poi, avevo già sperimentato molte volte solo i miei limiti e raramente i punti forti sui quali poter fare affidamento. Inoltre mi sentivo inferiore perché lei era insegnante, mentre io mi ritrovavo senza istruzione superiore. Il mio sogno era sempre stato quello di frequentare le magistrali per diventare maestro, ma la mia vista, a quel tempo già gravemente compromessa, rendeva impossibile il proseguimento degli studi. Ero molto giovane e avevo avuto poche esperienze buone o anche solo positive, sia con il prossimo che con me stesso. Per fortuna, col passare del tempo, ho imparato ad apprezzare molti valori che non sono condizionati dal vedere o dal non vedere. Diventando padre, nonno e, grazie alle opportunità scaturite dall'impegno nel campo sociale, lavorando in diversi gruppi, si è persino realizzato il mio sogno di essere un maestro. Questo era il momento, sì, sicuro, più la parte più cattiva, diciamo, che mi sono sempre tirato dentro, che non pensavo di essere degno di avere un amico, vero? Sì. No, fanno loro. traduciamo la tua parte. Cosa devo dire? Che cosa tu insegni? In qualche modo. No, quello è al centro ciechi, arrivano delle classi, noi facciamo, io faccio poi un momento di incontro, per me è importante dire non solo un Ausbildung, come si dice, visitare la casa, io ci tengo che ci sia un incontro tra di noi e che ci lasciamo come amici. E questo si riesce molto bene, io sono lì quasi 2 ore di solito, faccio i miei punti, facciamo comunque interattivo, mi faccio accompagnare, dico sono un cieco sulla strada, come sperimentiamo insomma un po' più i punti, come guidare, come arrivare, come fare il primo contatto, perché il primo contatto... Se devo trovare un ingresso sotto i portici, devo chiedere, ma quando chiedo mi sembra di parlare nel vuoto, no? E poi la gente passa senza rispondermi, perché io non ho nessun controllo se loro magari guardano in vetrina, così. Insomma, il primo contatto è sempre più difficile, no? Ma comunque questi incontri, poi abbiamo il percorso nel buio, così questi incontri io li faccio proprio volentieri, è proprio il mio lavoro più hobby, che faccio con più cuore, diciamo, stare insieme ai giovani. E poi per i grandi c'è anche il ristorante al buio? Sì. Per i grandi c'è il ristorante al buio. Okay. Se i sensi e i talenti in ognuno di noi sono più o meno spiccati e sviluppati, ciò vuol dire che non è facile essere giusti con tutti. Si dice che essere giusti significhi dare a ciascuno quanto gli spetta, ovvero trattare ciascuno in base alle sue capacità e ai suoi limiti. Ecco dunque il pericolo di non agire sempre secondo giustizia. Non dobbiamo quindi dimenticare che non si è sempre giusti nel valutare le capacità dei singoli o quelle di alcuni gruppi emarginati, dei quali forse dovremmo occuparci con maggiore energia. Per esempio, riguardo all'applicazione della giustizia per i minorati, tocca a noi stessi impegnarci, mediante le nostre associazioni, nella lotta per l'abbattimento delle barriere architettoniche e non solo. Ovunque non ci siano percorsi tattili per i ciechi, i marciapiedi siano alti e non superabili senza le dovute rampe, o gli ascensori siano troppo stretti per il passaggio delle sedie a rotelle, dobbiamo impegnarci affinché le cose vengano cambiate. Adesso mi riallaccio un attimo al discorso di impegno sociale, poi non so come si fa a partire il video. Allora, il video lo vedrete, non lo commento più di tanto, vi lascio solamente scorrere le immagini e farò partire l'audio, che è, secondo me, molto bello, perché è Viva la vita dei Coldplay, e secondo me questa è una colonna sonora che dovremmo avere tutti costantemente. Dopodiché possiamo anche abbassare il volume e un po' racconto i miei 5 anni. Adesso faccio vedere un video e poi dopo vi leggerò solo 2 frasi del mio libro, poi gli altri, se vogliono, lo leggono. Questa fotografia è di mia figlia, quindi ci tenevo molto. Quelli che vedete sono gli ausili robotici che ho utilizzato per la riabilitazione della parte emiplegica. Balliamo? Balliamo? Scusate il volume. Sì, mi piace la musica. Ecco, c'è la musica. marcia del dono. In India. Ah, è in India. Una barca bella. Allora, se avete visto l'ultima immagine, No Limits, ed è quello che io voglio dire a tutti, ma al di là delle persone abili in maniera diversa, come definiamo noi, i No Limits non dobbiamo porceli tutti, cioè ognuno di noi deve in qualche modo, non dico non solo fare la sua parte, come diceva giustamente Nicolas nel suo libro, cioè in qualche modo denunciare le barriere architettoniche. È uscito proprio ieri un articolo, una piccola lettera che ho scritto sull'Alto Adige, su altri parcheggi occupati. Io più o meno ogni 15-20 giorni sono sui giornali, denuncio ogni volta che c'è qualche occupazione in maniera indebita o qualche disagio. Ho scritto a Trenitalia se ho difficoltà ad entrare in un museo, se ho qualsiasi altro tipo di disagio o impedimento, pretendo che il mondo sia di tutti e per tutti, e quindi credo che giustamente ognuno deve contribuire in questa società, per definirla tale, civile. Quindi questo è un obiettivo che io continuo a perseguire. Io leggo solo due frasi, poi dopo se vogliamo concludiamo con quello che volete voi del vostro libro, del libro di, scusami, di Nicolas, non vostro, scusa, mi volevo togliere. Io dico questa frase, che è un po' quella che in qualche modo mi rappresenta adesso: quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendola con dell'oro, perché credono che quando qualcosa subisce una ferita e ha una storia, diventa più bello. E io mi sento proprio così. Inoltre, come diceva Don Gallo, io vedo che quando allargo le braccia i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri, e sempre con coraggio cerchiamo di continuare ad essere trafficanti di sogni. Vivere solo dire che quando l'Eleonora è venuta la prima volta al centro Cechi per fare questo incontro, e tutti la volevano bene, tutti hanno visto, ma non per il testo, non so neanche quanto hai letto dei testi, ma come persona, è proprio una persona da voler bene, questo è proprio così. Per quel che riguarda la comunicazione, quindi come avete visto anche adesso, come si condividono, si condivide l'esperienza di noi. Vedere con tutto il corpo. Se facendo una passeggiata su di un tratto viene a mancare la sensazione del sole sul mio viso, se non sento più la brezza sul mio viso, se cessa il mormorio dell'uccello, se sento sopra di me il canto degli uccellini, se percepisco un odore nuovo, goccioline che cadono dall'alto, se il terreno sotto i piedi si è fatto accidentato, combinando questi o più segnali simili, posso dire con sicurezza che sto passando di fianco a un grande albero. aperto, specialmente in un paesaggio invernale innevato, possiamo localizzare bene oggetti massicci grazie alla buona eco che ci rimandano. Una volta, mentre facevo una gita con gli sci da fondo, di buon umore per essere giunto sul punto più elevato della pista, mandai alla natura un grido di gioia, restando assai sorpreso per sentire la sua eco. Dissi a mia figlia che mi accompagnava: a circa 200 metri in questa direzione ci deve essere una casa. La ragazza, molto sorpresa, confermò l'esattezza della mia supposizione. La chiara eco proveniente da quella parte non mi aveva ingannato. Il messaggio delle mani. Entrando in contatto con le mani di chi incontro, noto ragguardevoli differenze e particolarità, sia nella forma che nello stato, e che anche nel messaggio proveniente. Dalla stretta. Forse è possibile considerare le mani alla stessa stregua di un biglietto da visita. Esse, infatti, per chi sa interpretare il messaggio, sono come un libro aperto e rivelano una quantità di notizie sul vero stato di salute dell'individuo. Le linee, le cicatrici parlano del suo passato, la pelle fine e ruvida svela il suo lavoro. Se le mani sono umide o tremolanti, tradiscono lo stato di un ansioso. La grandezza può indicare la statura o l'aspetto, mentre le mani di un boscaiolo non possono certo essere scambiate con quelle di un burocrate. Anche la stretta di mano può rivelare molto del carattere di una persona. Volevo coinvolgere un attimo voi, se volete, se avete domande o se avete curiosità o se volete in qualche modo interagire o no, va bene? Volete andare a casa? No, nel senso che noi ci rendiamo conto che noi siamo di qua e abbiamo il potere del microfono, però nel senso che giustamente volevamo in qualche modo, magari se avete anche qualche curiosità o domande o vi va bene così, insomma, noi... Sì. Io vorrei chiedere una cosa ad Eleonora. Sì. Dopo l'operazione al cervello, sì, no? Qual è stato l'aspetto più difficile della riabilitazione, quello fisico o psichico? Allora, devo ammettere che allora l'emiplegia, per chi non l'ha vissuta, comunque vabbè, dopo un ictus è analogo, la perdita totale del controllo è praticamente, ti metti KO anche il cervello in quel momento, ovvio. Io scrivo nel mio libro ovviamente che la realizzazione del momento in cui ho capito che ero paralizzata è stato uno shock, perché io sono entrata con le mie gambe e sono uscita in sedia a rotelle. Quindi all'inizio mi avevano detto che dopo 15 giorni sarei tornata a lavorare in palestra. Ovvio che lo shock è stato maggiore, quello psicologico e mentale, però conoscendo me stessa e soprattutto avevo all'epoca due figli minorenni, ho pensato: devo reagire. Quindi sicuramente è stato molto forte l'impatto mentale da subito, però nel mio modo di essere, chiaro, nel mio carattere, non posso generalizzare, è stato molto poi più faticoso la realizzazione fisica, perché il cervello voleva a tutti i costi recuperare ciò che non era così immediato. Io dopo quasi 6 anni sono comunque cronica, quindi attualmente giro comunque con 2 bastoncini del Nordic Walking per obbligarmi anche a utilizzare la parte emiplegica. Sono comunque epilettica, quindi sono sempre sotto farmaco e ovviamente sono dei limiti con i quali io convivo tranquillamente, anche in maniera molto positiva. Quindi è ovvio che la parte poi fisica è stata quella che mi ha impegnato di più rispetto a quella psicologica, perché il click è arrivato dopo una settimana a livello mentale. Quindi la parte più faticosa è stata quella fisica proprio. Bene, penso che oltretutto il fatto di essere un insegnante di educazione fisica sia una cosa che veramente è doppiamente una specie di scherzo del destino, diciamo tra virgolette, no? Perché caspita, una che aveva questa dimestichezza col proprio fisico, con le abilità fisiche, trovarsi d'improvviso proprio lì ad essere colpita non deve essere facile. No, però c'è da dire, allora ci sono due aspetti. Uno è quello, io vedo sempre quello positivo, ovviamente, però cosa succede? Che avendo proprio un buon controllo del corpo mi ha permesso anche di reagire in maniera più facile, perché appunto conoscevo bene anche dove andare a lavorare. Questa è una cosa. Due, se vedete anche i grandi sportivi, adesso cito Zanardi perché è, diciamo, quello più conosciuto, però chi viene dallo sport vive un po' la vita come una sfida, perché comunque si pone sempre degli obiettivi chi fa sport, e ovviamente anche questo io l'ho presa come una sfida. Io dico ok, non ho più la capacità che avevo prima, però sfido me stessa a recuperare il più possibile, e quindi mi rimetto in gioco e i limiti continuo a spostarli in avanti. Volutamente si torna al limite alla fine, perché è quello, se uno si pone già dei limiti prima, io non mi ripongo, dove arriverò non lo so, chi se ne importa. Io comunque continuerò a battagliare, e non solo per me, questo discorso che io faccio lo faccio proprio perché se ne parli in generale, come fa Nicolas con le scuole, per creare delle attenzioni sul mondo delle non vedenti. Credo che sia proprio una sfida continua e mi porterà a essere così, credo, finché non sono orizzontale, ecco, per dire, sono un po' così io di carattere. Complimenti. Volete scegliere una lettura di chiusura e poi ci congediamo? E non so qual è il... Allora, a me sembra anche molto molto profonda e bella, vedere o guardare un prato fiorito. Vedere e guardare sono due cose diverse. Quando vedo, percepisco con gli occhi. Quando guardo, osservo e considero con interesse. Io vedendo registro forme e colori, guardando ravviso molto di più. Se vedo soltanto, so che cos'è. Se guardo, esamino a fondo. Ciò che vedo è presente al momento. Ciò che guardo mi resta impresso. Se io mi limito a vedere, dimentico presto. Quello che ho guardato mi resta nel cuore. Vedere porta informazioni. Guardare dà immagini che mi sostengono. Sono contento di aver visto tante cose, ma grato per quelle che ho anche guardato, perché ne ho ricordi incancellabili, e sono riconoscente del fatto che pur non vedendo sono ancora capace di guardare. Io vi dico l'augurio che dico alle classi, cioè usate gli occhi per vedere le cose belle, siete contenti di vederli e grati che ci sia, che il mondo è così bello, essere grato, dico. E un compito di casa, provate quando vedete qualcosa che proprio vi piace, quando dite che ammirare è una bella parola anche, provate a descrivermelo. Descrivere le cose è un altro, sarebbe un altro tema, come descrivere con destra e sinistra. Provate a descrivermeli a me e mandatemeli col pensiero, l'energia arriva sempre. Grazie.